telefono chiuso. Perché mi avevi più forte del solito. Adesso già ti sento. Prima ti sentivi a livello incomprensibile, proprio fatto disegnare, avanti tu atto puro disegnare, sì. Io ti sento bene, poi non so se è cambiato qualcosa. Non bene. Aspetto che ti sento bene confronto alle altre volte, perché mi arrivate molto più basso. Neanche io lo so. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi, al limite sto facendo qualcosa qua. Ci sentiamo oggi. Prova a richiamarlo, magari non ce l'ha acceso o sta per accenderlo. Se avevate appuntamento. Ciao, ciao. Sì che ci sono, Nico, dimmi. Come va? Gli arresti domiciliari. Come vuoi che vada? Chiama gli arresti domiciliari, Nicola, carissimo. Buongiorno innanzitutto, che non ti avevo salutato. Stavo parlando con Eugenio, che lo sento meglio oggi. Quell'amico di Porto Torres, hai capito? Da lì sì, perché sei diretto praticamente. Però Porto Torres lo sento basso pure io. Capito? Che c'ho l'antenna sul tetto. Figurati un po' se lo puoi sentire tu col portatile. Non ti fumo, non te lo puoi mettere sul terrazzo, sopra. Non ho sentito nessuno, Nicola, verità. Perché stavo accendendo adesso. Oh, avevo sentito a Eugenio chiamare Luca del Monte, ma no, ma non ho sentito nessuno, la verità. Quindi ti ricevo, ti ricevo bene. Forse magari il segnale sarà più basso di quando tu usi la batteria esterna. Capito? Io già ti ricevo, ma anche perché siamo vicini noi. Però ti ricevo perché io ho l'antenna sul petto. Capito? Mi arrivi anche più forte di Eugenio. Ma da dentro casa, prova a vedere da dentro casa a vedere se ti ricevo. Magari ti ricevo ugualmente, Nico. Se ti ricevo mattino, ma ti ricevo. Se ti ricevo basso, ma ti ricevo. Non sei a livello di come eri poco fa. Prova a vedere, là, chiama, già sono qui. Vai, vai, col comune. Mi chiedi Eugenio, Luca. Mi stavo facendo la doccia, Natalia, non c'ero in camera. Vabbè, io ho sentito a Eugenio che ti chiamava. E gli ho detto che non ti avevo sentito. Che poi tu stessi facendo la doccia io non lo potevo sapere. Stavo dicendo io, non c'ero in camera. Quando fai così io ti temo. Vero. Luca. Chi è? Buongiorno. Buongiorno. Allora, tu hai raccontato la balla, perché invece hai fatto la doccia, che sai cosa stavi facendo, compenso il tuo cazzo. Non c'è, non posso fare altro, sono da solo a casa, sono da mamma e non sono da Marina. Allora ci credo, perché se sei da solo non puoi farlo più. Ciao. Concede, quando sei in due fai lo zuzzuzzu. Perché non ho sentito. Ho detto, da solo non fai nulla, in due fai lo zuzzuzzu. Allora, da solo non si può parlare, non si può fare niente, però in due, oia. In due te ne cavi anche gli occhi, Concede. Poi c'è quel cuocomane di Natalino, ma però... vai, vai, cuocomane sarai tu, sarai. Davvero? Davvero, ma cosa vuoi che ti venga lì e ti faccia il piccetto a schiaffi? Non puoi uscire, hai ragione. Peccato che sono agli arresti domiciliari, se no... Davvero? Davvero, davvero. Ah, ma tu conta, ma mi devo vestire, mi sono fatto anche la barba, la corciata, e poi io avevo un coso, un albanese, pari. Adesso ci vuoi scendere a fare un po' di spesa lì a Via Grazia Deledda. Ma di profusa, là? Ma l'altra mattina me lo prendo, ma me lo compilano io o lo compilano loro? No, tutti i dati personali tuoi devi mettere, poi se ti fermano, glielo firmo. E se no, no, se no, ti voglio dire da adesso vado al tabacchino e faccio dare quello nuovo, se ce l'hanno, ma se no non ho più stampante io. Nella casa non mi posso muovere da nessuna parte, non posso andare a casa di nessuno a pigliarlo, volendo. Non ne hai stampante, hai già cancellato stampante, vedi se infatti, qua stava per la cartuccia con la stampante, me l'avevo regalato una nuova, nuova, lì, fiammante, cazzo la cartuccia costava per la stampante. La cipria della giurigarata. La stampante costa 50, così. Su eBay c'è tutto. Basta scrivere il modello e trovi tutto su eBay. Ma io le pago poco, quelle per la mia. Io sono un AE630. C'è anche lo scanner. Guarda, è di lusso questa stampante che ho io. Dunque io ne ho stampato un sacco di quei fogli, ne ho stampato. Gente che ne aveva bisogno, che non avevano stampante né niente, glieli davo. Adesso me ne ha stampato 5 per me, però se a qualcuno serve glieli stampo qualcuno. Se no io qualcuno già lo posso stampare per qualche persona che si che gli serve. Luca, se ti segui, mi basta e pigliati. Sì, ma ora te lo posso sì. Ce lo posso sì, non posso. Non posso far nulla. Sì, quel foglio vecchio gli scrivi che stai andando al mercato civico a fare la spesa. Aspetta, facciamo che ti ridò. Tu passi dritto, se non ti fermani, non irai foglio e ti pieghi di nuovo. Mi resta, aspetta, arrivo subito. Dimmi, quando si arriva ti manda a concetta con i fogli e ti ridò. Aspetta. La mattata lì succede al tabacchino, costa 10 centesimi, non è quello. Penso che ce l'abbia il tabacchino. Saranno aggiornati anche loro. Aspetta, arrivo subito. Riprendi Nicola. Ma come, quando eri fuori ti ricevo? Vuol dire che la batteria, quella interna, ti fanno uscire più basso perché non hanno tutti i volti che servono all'apparato. Dicevo, come quando eri fuori, ci sto dicendo, Nico. Infatti, sta riuscendo, troppo alimentato, Nico. È per quello che uscivi più basso da dentro. Invece adesso, con quella batteria lì, si è alimentato giusto ed esce bene l'apparato. È come quando eri fuori. Se vai fuori ti ricevo molto più forte, non ti preoccupare, io ti ricevo bene adesso, come quando eri fuori poco fa. Certo, basta anche un'antenna di macchina, lì. Se tu metti un'antenna di macchina avvitata lì con una stampa, guarda, dovresti uscire benissimo. Perlomeno per la città dovrebbe andare bene. E quello già è una disgrazia, che siamo agli arresti domiciliari senza aver fatto niente. Certo, Nico, se tutti rimaniamo a casa, il virus a dove si attacca? Al tram, capito? Se invece la gente non rispetta, il contagio prosegue. Devono rispettare le regole, devono la gente. Hai visto che hanno messo da 300 a 3.000 euro? Da 400 a 3.000 euro, può arrivare anche a 4.000 la sanzione. Sì, sì, è tornato a passare, Nico. Adesso sì. In Cina sono comunisti, non sono come noi. In Cina ti puntano il mitra e ti sparano se esci da casa. Anche noi piano piano ci dovremmo riuscire, Nico. Se la gente rispetta che si abbassano i contagi, dovremmo riuscire anche noi. L'importante è che la gente resti a casa e che esca solo ed esclusivamente per cose per necessità, capito? Che non facciano assembramenti nei supermercati, tutte queste cose qua. Perché uno non bisogna fare assembramenti, uno se esce, deve stare lontano dalla gente, e uscire con la mascherina e con i guanti se possibile. Sei sicuro, se c'è assembramento, ti sto dicendo, se c'è assembramento, il contagio prosegue, perché c'è gente che non ha sintomi, si crede di essere sana e poi trasmette il virus. Infatti che cosa? Mi sembrava strano che si tenevano i soldi senza che tu abbia effettuato il viaggio. All'altro anno ci vai gratis, vuol dire. Gratis, pagato l'hai. Infatti l'aeroporto è chiuso. Hanno chiuso tutti gli aeroporti, mi sembra che si è aperto solo quello di Elma e basta a Cagliari. E non so se è aperto, se non l'hanno chiuso anche quello. Non so, poi c'è stato anche questo esodo dei milanesi, dice che c'è Trentino pieno di gente di fuori. Ma tu non hai capito, è logico che c'è il contagio dopo. Ecco, evidentemente ti sei ammazzato, forse ti stai muovendo e in certi punti non ti sento, quando forse ti stai spostando. E qua ti sento benissimo, perché se tu metti un'antenna fuori dal fogliolo lì, guarda che deve essere lontano almeno un metro dal muro. Se tu tieni un'antenna lì puoi metterti anche un veicolare e così non usi portatile, capito? Potresti provare con un dipolo da un poggiolo all'altro, perché 5,50 metri il dipolo di lunghezza totale. Potresti mettere un dipolo provvisoriamente. Quanti ne hai poi giù? Non so. C'è il portatile omologato che ho io, quello mi costa una settantina di euro da fuori, è un Polmar, questo che sto usando adesso, ZX40 Pro, questo qui è omologato a tutti gli effetti, è marcato CE e tutto, e poi c'è la modifica che puoi aumentare il RAP e i canali. Questo qui io lo lascio normale per tenerlo omologato ed è veramente bello come apparato. Il giorno che ci troviamo te lo faccio vedere quando potremo uscire. Se la stanza di nuovo poi te lo faranno pagare un occhio della testa, da internet l'avevo ordinato io. Come alimentatore io uso uno switching 30 ampere, però tu te lo puoi fare con un alimentatore di computer, te lo puoi fare per alimentare questo qui, e mi sembra che qualcuno ce l'ha di alimentatore, prendi i 12 volt e li colleghi all'apparato e tu sei un signore. No, quelli lì non servono, un alimentatore switching di computer, quelli di computer interni, quelli che hanno interni i computer, quelli desktop, quelli lì, che hanno tante uscite, tu prendi la 12 volt da lì e hanno 7-10 ampere qui, secondo quando sono grandi a 12 volt, ha voglia per alimentare un apparato del genere, mi sembra che sta spendendo un ampere. Ma se te lo fai così, switching, che hanno la pentola e tutto per raffreddare quelli dei computer, quelli che ci sono all'interno dei computer, dei case dei computer, quelli lì vanno bene per alimentare un apparato del genere. Con chi stai parlando con la tattica? Se no io dovrei averlo uno, se lo faccio io l'alimentatore non c'è problema. Buongiorno Giulio, sto parlando con Lupo Grigio, tu non lo senti perché lui è dentro casa, capito, col portatile, io lo sento perché ho l'antenna sul tetto, ma tu sei troppo distante per sentirlo. Ok Natale, va bene, lo saluto a Lupo Grigio. anche a te. Comunque continua a fare, io rimango in ascolto, che sto ultimando certe cosette e poi magari più tardi, se è possibile, ci possiamo risentire. Ciao Natalia, comunque lascio acceso la radio. Ciao anche dopo pomeriggio se mi sta ascoltando, alle prossime, dai, riprendi pure Natalia. Fa salutone, buon Rick, e a sentirci al più presto. Ciao Giulio. Giulio Lupovigio, però a te non ti sentiva, amico, capito? Perché lui abita fuori Sassari, fuori dal circondario di Sassari, abita in una frazione qua vicino. Però non si sente, anche perché ha l'antenna bassa, forse. Ora, attenzione Lupo Grigio, adesso sì che ti sento, se parli già ti sento. Infatti ho chiamato e non mi ha risposto due volte, che se vuoi che ti dica, da qui, da dove sei messo adesso ti sento benissimo, ti sento. Giulio è che non ti sentiva, perché lui abita fuori, in periferia, capito? Te credo, se ti metti sul terrazzo già ti credo, ma quando ci troviamo di persona me lo dici, perché non puoi mettere l'antenna e tutte queste belle cose. Che io ci avrei messo un di poco in quel terrazzo lì e si è sparato. Penso proprio di sì che vada festeggiata. Vediamo che si esca presto questa maledizione. Uno si è già mezzo ammazzato, si è buttato al quinto piano, dice. Ed è caduto sul tetto di un'ambulanza e non è morto per quello. Dimmi tu adesso che arriviamo anche ai cicci, già si può fare, già ci mettiamo d'accordo, Nico, non c'è problema. Comunque, all'inizio io e tu ci possiamo trovare anche, tanto siamo vicini, vai al mercato civico, io sono lì, praticamente mi faccio trovare al mercato, io sono vicino. E così ne possiamo discutere. Dimmi tu che siamo agli arresti domiciliari senza aver fatto nulla. Non per colpa nostra. Tu, stavi dicendo Nico? Speriamo di no. Speriamo che fra un po' cadi questo contagio e ne la teniamo lì, perché qua molta gente non resiste, mica non sono sani di testa, girano di testa e fanno cose inconsulte. Guarda, non è solo questo il danno, il danno sarà dopo, che ci sono tutte le fabbriche chiuse, ma se io non so, certe ditte magari non riusciranno più a riaprire, lì è un danno enorme. Speriamo, speriamo, e che aiutino queste ditte qua, le devono aiutare economicamente, se no c'è gente che non riesce più a riaprire da questa cosa che abbiamo ricevuto. Che vuoi che ti dica, speriamo che finisca tutto al più presto e che riescano a ripartire le piccole e medie imprese, perché sono quelle l'ossatura dello Stato praticamente. L'Italia si vede per queste piccole e medie imprese, le grandi lasciamo alle feste, tutti stanno chiudendo anche gli artigiani, li stanno facendo chiudere per forza. Adesso c'è Lelo che lavora lì a Zacchena, lui abita a Olbia perché prima la fabbrica era Olbia e lo stanno facendo chiudere, da domani sono chiusi, lavorano oggi e da domani sono chiusi, in ferie l'hanno mandato a lui e a certi neanche le ferie gli hanno dato, solo la cassa integrazione. No, non lo so, 70-80% dovrebbe essere, a lui solo però hanno messo le ferie, gli altri in cassa integrazione. E lui è ferito elettronico e l'hanno messo alle macchine, praticamente lui dà le coordinate col computer e queste macchine si fanno il chiusi. Lui ne sa più del principale, perché i corsi di aggiornamento lì, ci va lui lì, il principale non ci va, quindi è avanti al principale. Se manca lui, si ferma tutto. È una fabbrica di fare in America. Loro ci mettono il petto in questa macchina e praticamente ne c'è il petto finito, dimmi tu, non è più come prima, no? A fare tutto a mano. Infatti, ma lui ha preso il diploma all'industriale, lui è perito elettrotecnico, capito? E allora lui fa queste cose qui, è il suo lavoro quello. Poi il principale lo vuole anche bene perché sono della stessa età, mi sembra, e poi lo manda a fare questi corsi di aggiornamento. Si è preso una macchina che costa 1 milione di euro, mi sembra, una cosa del genere. E lui non la sa usare il principale, chi la sa usare è questo che ti sto dicendo io. E praticamente se manca lui si ferma la fabbrica, non penso. Quindi lui siccome l'ha messo in piedi ha pagato al 100%. Tanto lui ha detto, io Fridi non ne prendo e quindi è come che prendo lo stipendio normale. Penso che sia macchina, ma ci sono anche i figli del principale, lavorano tutti lì, è un'azienda familiare e lei non lavora lì. Il suo mestiere è quello di fare questi lavori qua con queste macchine. Lui gli dà le coordinate tramite il computer e la macchina esegue. Che credo. Come metterglielo lui a vedere cosa succede? E infatti, ho capito cosa hai detto. Si è dimenticato il comando di mettere l'olio mentre il turno lavorava. E te credo. Un amico mio è perito chimico alle industriali e lui ha fatto il carabiniere praticamente, poverino. Però già si è congedato come nuovo tenente. Forse magari l'avrei anche conosciuto, questa persona qui. Guarda che comandava la stazione di Chiesi. Signore, sarà fatto. Si è congelato da poco e l'avevano mandato a Porto Torres ultimamente. Perché era nuovo tenente, si è congelato, ho capito. E quanto è me, praticamente, quanto è me, amico d'infanzia, proprio amico questo qui. È una persona veramente squisita. Un tipo, non era grasso, alto era 1,80 m. Le iniziali sono GC, come Golf Charlie. Sì signore, guarda che era scuro di carnagione, con i baffi. Mettiti dove di prima che non ti ho sentito, Nico. Signore, no, non sono informato. So che il padre era ragioniere, lavorava in banca. Da voglia. Era comandante di stazione a Chiesi. Ha finito lì a Porto Torres. E si è congelato come luogotenente, lui a Chiesi era maresciallo maggiore. Ho capito. Lui luogotenente si è congelato, diciamo così, andate in pensione. Penso di sì. Poi non è che stava bene di salute, poverino. Quindi non penso che stia facendo niente. Vabbè, un lavoro anche questo, anche questo amico qua farà la stessa cosa. Quello spetta ai genitori. No, ancora no, non si vogliono decidere. Stavo dicendo, quello lì era perito chimico, era quello lì, all'industriale. Quello che conosciamo noi. Praticamente ha rinunciato a diploma tutto per entrare, lui ha fatto il corso sottufficiale, ha fatto l'esercito vice brigadiere e poi ha fatto la carriera sia in continente che qua. Infatti l'avevano fatto il comandante di stazione lì a Tiri. Le persone così che sono specializzate lo mandano dove serve, non lo lasciano senza far niente, no? Lì quando sei così, dico, hanno bisogno a Roma, e ti mandano a Roma, da vedere un quartiere, è più grande di Sassa. Sì, ne ho sentito parlare, zona Lotta, del quartiere. Già ne ho sentito parlare, sì, lo so, lo so. L'unica cosa che rimprovera a questo apparato è il microfono, mamma mia che brutto, è piccolino, è bellino il microfono, però non viene bene a usarlo. Solo è. Io non so manco il numero del telefono tuo, perché se no su WhatsApp ti avrei mandato la fotografia. Ma è bellino come apparecchio, c'ha di sé blu, grande, poi c'ha il canale, poi schiacci un tasto e si esce la frequenza, ma bellino, è bello, di quelli moderni, adesso c'è scritto IT10, perché puoi metterlo in tanti paesi, no? Secondo il paese che è, quando so io non possono trasmettere in AM, e allora esce in FM solo, piove. Aspetta un attimo, con te, ora qua no. Ma cosa vuoi che ti dica? Che c'era vento, io stamattina non sono uscito perché il cane l'ha portato mia moglie, il cagnolino che ho, no? E praticamente l'ha portato mia moglie, perché io lo porto la mattina e mia moglie la sera. Sì, il nome delle tue parti, però è di qua, è di Sassa, di là. È che la nonna era napoletana di Napoli, capito? Gli hanno messo questo nome qua, infatti delle tue parti, Napoli è delle tue parti, diciamo, Concetta. Qua si dovrebbe chiamare Immacolata, però l'hanno chiamata Concetta, perché la nonna si chiamava Concetta, che era napoletana. Sì, serrato adesso. Ricevo benissimo, se tu metti un'antenna di macchina come quella che ho io nella macchina mia, perché l'antenna se l'ho in campagna, c'ho solo la base attaccata alla cappotta, no? Quella lì, sopra che cosa, ma tu pensa, quell'antenna io la mettevo sopra il filo, attaccata a una base magnetica la mettevo, no? E parlavo di brutto con quell'antenna. Sul frigorifero, faceva mano sul frigorifero, si mette. E non era neanche in verticale, era un po' in orizzontale perché se no toccava la volta, siccome il frigorifero è alto, no? E di quelli grandi. E allora la tenevo piegata l'antenna. Se la vuoi io te la do, non c'è problema, Nico. Facciamo la base perché devo andare in campagna a prendere l'antenna. E la piazziamo sulla base magnetica che io ho, perché io sono una base magnetica grande, no? Che l'attaccavo al frigorifero, quell'antenna lì, quando parlavo dentro casa. Non ho capito. No, lo puoi orientare come vuoi tu. Questa è la PL 800 della Sigma. È alta più di un metro e mezzo, è alta, guarda, è un'antenna favolosa. In macchina io la usavo con Gianni, per esempio, lui aveva la Turbo 2001, beh, la stessa resa. Poi si vede la posizione migliore dove metterla. Dovrebbe andare benissimo, ma dovrebbe funzionare, vediamo un po'. Perché quell'antenna lavora in cortocircuito, lavora, e non è che ha bisogno tanto di massa. Se ne c'è la massa e di lusso, perché c'ha una borsa in ozone, no, nella base, e la manda in corso praticamente, lavora in corso circuito quell'antenna, 5 attacchi d'onda, guarda è una bomba, eh. Infatti io quando tolgo la base devo farti l'applicazione per metterla sulla base magnetica, capito? Perché a te ti conviene con la base magnetica, così la puoi usare anche in macchina. Infatti, la lasci attaccata lì, tu se la devi usare in macchina, prendi la stacchi e la attacchi al centro della macchina. Molto ci vuole. Poi quell'antenna è larga, puoi anche correre, sta tranquillo che quell'antenna non esce. Di sicuro. Cosa ti volevo dire? Io la usavo sul frigorifero, se ti prendo. La usavo sul frigorifero. La mettevo sul frigorifero e parlavo col baracchino. Sì, in macchina la puoi usare, perché se la metti sulla capota della macchina, la base magnetica, e tu parli tranquillamente. Serve solo un segnale. Tanto per dire, se a uno con la capota della macchina gli arriva a B9, sulla base magnetica gli arrivi 8. E rende che una guarda, rende di lusso quell'antenna. Serve solo un segnale, basta. E la usi con la base magnetica. Io la tenevo fissa in macchina, figurati, perché c'è la base ancora attaccata alla mia macchina. Ci metto un antennino VHF, mi sembra che ce l'ho già, e così tappo il buco. Non penso, mi metto la base di un'antenna VHF e così tappo il buco. Io l'avevo bucata perché prima andava di moda, uscivano tutti in macchina con questo CD, adesso tutti hanno smesso, se no me l'avevo lasciata fissa, invece l'avevo fissa, l'avevo spesa anche con la pinza, proprio per non buttarmi via la spesa, infatti con le mani non ci riuscivi a fissarla, capito? Perché c'è un maniglione per poterla piazzare. È come una farfalla, solo che questa è attaccata allo stile, questo maniglione. Sì, ma ne ho tolto tutto, non c'ho né apparato né nulla, quello che avevo, siccome disturbavo i televisori, anche se era un monogatto, me l'hanno sequestrato perché non era marcato CE, quindi l'omologazione non valeva più. Ecco perché ti sto dicendo, prenditi un apparato del genere, come il mio, come questo che ho adesso, e così sei tranquillo, perché se ti fermano è omologato non ti possono dire nulla. Ma se voglio mi metto questo, capito? Me lo tolgo da qua e lo metto in macchina. C'è la staffa, c'ha due bulloncini con un pomodoro, c'ha. Dalla casa è fatto così. Lo attacchi alla staffa e via. Non stanno più modulando. Non stanno. Non stanno più modulando, usano quell'applicazione per il telefono, usano. Non ce n'è più, neanche barre pesanti, perché modulavano sul 5 e sul 45. Modulavano. Però devi avere un baracchino che ci arrivi al 45, capito? Giusto, ma noi non possiamo più fare nulla, qui c'era il coso di protezione civile, ne facevo parte anche io, solo che adesso se ne occupa il CER, che è gestito dai radioamatori. Non lo so, prima si aspetta un attimo che mi stanno chiamando al telefono. Quando scalda, boh. chiama. Adesso nell'altro ci potrò mettere il microfono suo originale, così almeno andrà bene. Yeah. Andrà bene, Meta. Prove tecniche di trasmissione, cambio. E va bene, va bene. Mettilo lì, lasciano accesa a vedere se te lo fa quel difetto, magari lo fa quando scalda, mi allora può essere un condensatore. Perché se no dopo te lo faccio sentire di là, te lo faccio sentire. Vabbè, da. Adesso con la tuffo lo faccio scaldare. No, aspetta, faccio scaldare il Galaxy. Scopro l'altro bambino da mappa. E faccio scaldare il Galaxy. Ciao. Parla col Cobra, e il Galaxy lo lasci acceso, a scaldare, a dire se la temperatura, ma io penso che sia quel microfono che ti fa difetto, che sa Delta, che gli pompi più radio di quello che può ricevere, e te lo faccio andare in una mare il modulatore, sono i microfoni amplificati che crepano i Galaxy. Ma l'aveva detto, corretta, perché non me l'hai portata, non so quanto scarto, ma quanto c'è il modulatore? Sì, perché c'è un modulatore debole, a meno che non è truffi uno rinforzato. Modulatore. Allora, il Galaxy quando è normale il modulatore, rimane bocca a faccia, specialmente se gli metti i microfoni amplificati. Se gli metti il microfono amplificato, tranquillo che prima o poi ci parte. E tu sei a me. E anche Antonello. Antonello ha lo stesso difetto di... Se hanno il difetto di modulatore, ma poi faccio dire a qualsiasi tecnico te lo dice. E gli fa cosa quando li può più radio. Se invece gli lascio il microfono normale, nulla di più. Che bagliere. Quindi non è nasina la voce come abbiamo detto. La voce tua. No, poi sentito l'hai quando te l'ho fatto sentire il Cobra. Non pensavo che... E beh, già, non c'è nessuno, boh, ma lasciate qua Cobra, Nemi. Cobra, la prima cosa sei tu. Se lo sai che vengo lì e ti faccio la barba a schiaffi, lo vedi. Vero. Davvero, noi? Noi chi siamo? Prima ho chiamato, io non c'ero, sono andato a fare la spesa a piedi già. Ragazzo, mi ha fatto in grazie all'eletta, oh, io mal di schiena, guarda, assurdo. Ma purtroppo dovevo andare, sono costretto, anche se ho il motorino. Adesso vediamo, questi giorni c'è freddo, manco lo prendo. Vecchio sta diventando, magari è. Lascia la testa messa male, io devo fare fisioterapia, ancora non mi hai chiamato. Hai detto che finisce questa maledizione, che siamo agli arresti domiciliari senza aver fatto nulla. E poi si va a fare a parità della fisioterapia. E tu. E da Gianni non devono andare lo stesso, poveraccio. L'hanno operato e non ci va a fisioterapia. Polizia a casa? Io stavo facendo pulizia qua, trattazione, mi stavo spolverando tutto là. L'altro televisore, vabbè, quello che è messo a posto funziona benissimo, l'altro, boh, accende la spia, clicco oppure non accende, un radio l'hai farato, vabbè, non mi interessa, penso che sia l'altro più nuovo, più recente. Ascolta Luca, come mi ascolti di radio? Bene, bene. Cavagava, questo qui è il Cobra. Va benissimo già, è perfetto. Homologation, con microfono normale. Sì, perché non so microfono normale? Ora ti faccio sentire il Galaxy col microfono normale. Via, Natalino, ti piace questa radio? O non ti piace, la mia? Troppo rauca, è come se fosse uno di quegli apparecchi omologati che hanno le eccomi, quelli che usavano i camionisti. Questo qua è il iPhone 2, modificato a colto, capito? C'è la scheda dentro, ed è rauco, boh. Attenzione Natalino, se tu ascolti Luca, coordinate e Cagliari, guarda, proprio isso, e dice apparecchi modificati, e dice quella radio tipica rauca, no? Positivo Cavarroce, là, non ci sanno problemi, La radio da camionista, tipica da camionista, cioè non è una radio chiara, bella, diciamo, l'effetto presenza, è rauca, brutto, quindi lo può dire anche Gianni, chiedila a Gianni lo stesso. Oh, già rauca ce l'ho. Stai uscendo già? No. Come non stai uscendo? Guarda, 1, 2, 3, provo. Questo è il microfono normale del Galaxy. Sì, sto uscendo. scende adesso. Antonio mi ha detto che la modulata di mia è rauca. Sì, lui è così, non è bella. Questo qui è il microfono normale, quello che ti stavo dicendo, che andava bene per quell'apparato, quello del Galaxy, dai. Come va? Luca! Ehi, va bene già. Come la senti la radio? Amplificata, no? Questa qui è quella originale del Galaxy. Il microfono suo, cioè fa ancora il nylon, nuovo nuovo. Sì, va bene già, siamo un po' amplificata anche, va bene. Aspetta che ti faccio vedere una cosa, con lei. Via, allora aspetta. Natalia, adesso è tutto normale, aspetta. Ok, adesso è tutto normale, va bene Natalia, o è sempre rauca? È sempre rauca, non è la radio che c'hai tu di solito, è una radio modificata. Come ti va di uno di chi sia 48 cazzo che c'è una radio di Parrauca? Così esce. C'è l'azienda, vuole un patto? No, Natalia, l'azienda vuole un patto. Non fare scena. È una radio di quelli da camionisti, Rauca, così esce. Ma dico, cosa posso dire da Rampo? Ma cosa dire di Mirappà? Prendi dire che tu apparecchio serio. No, deve cambiare il microfono e basta. Sì, c'è troppo microfono, adesso qua. Ce ne ho 50.000 microfoni, ma non so se ci sia quello che vada bene. Sono uno di quelli di Alan 48, bisogna vedere se gliela schiarisce la radio. Perché la, quello è perché c'ha la scheda Colt dentro. È uno di quegli apparecchi modificati nei Colt. E ci negozi. Non ha la radio chiara come la puoi avere tu, capito? Adesso quella che stai usando tu nel Galaxy, quel microfono lì, ma di modo amplificato, dici meglio di Rucovra tu. Quello della Marina, Natalia, mi piace se lo sto facendo accendere, se lo sto facendo accendere. Quello che c'è normale è una fattosa. Quello è perché è così l'apparecchio mio, Luca. Vai a chi va la radio vea tu. Se tu pigli chi su chi va la Maria, e tu non è più chi su chi va la Maria, la cosa già fa da così a così. Io capisco non te ne dicono. Chi ne vuole entrare? Chi ne vuole entrare? Avanti. Boh, sentivo un bip sotto di te. Natalia, poi giù un grillo. Là, sai, ma il bombi come ciò. Deve mi 40, però quello mi piace. Luca, vieni a pigliarti, vai, ho solo fatto il micro. Sì, già, me la piace, capiti? Magari, budisci, ci capiti già. Io non penso che cambi la radio, anche se gli dai il microfono. Perché uscivano così, col microfono dell'Alan 48. Uscivano con quel microfono nero che usavano. Usciva così lo stesso, quelle radio. Io penso che non la possa modificare la radio, anche cambiando il microfono. Gianni, manda la foto di quel microfono. È quello della Airbag, lo conosci l'Airbag? Ah, boh. Allora, io ne avevo due microfoni, di cui uno non riesco a farlo andare, però la capsula è uguale, l'ho provato in tutte, non anda. Non va. Ma se stai mi senti? Aspetta un attimo. Oh, Gianni. Nara. Concetta ha comprato le mascherine da Pisano, ci sono. Ci sono le mascherine? Già, ma comprare tu fatti. E Pisano dove? Costo. Sì, buono, no, sì, buono. Aspetta che chiama Ilaria per vedere se la rimbalza, dai. Chiamala che magari ce le ha. Scusa. Aspetta un secondo, in realtà sto cercando una capsula, aspetta. Ma non lo so cosa vi la fai a modificarla, no? A chi era la scheda che gli dà quella radio lì? No, Natalia, fidati che anche io gliel'ho cambiato perché non andava bene. Cambia la radio. Esatto. Vediamo che ci riesca, appena c'è una radio vera, che si mette qui, per rauca, si sente così. E a me come mi ascolti il collegaccio? Attenzione collega, si ascolti il doppio numero della città di Sassari, cambio. Già ti ascolto bene. Poi. La radio mia com'è? Com'è la mia radio? Fa schifo? No, è buono. Il microfono, mamma mia. lì, ragazzi. Piccolino, viene così male a usarlo. E in campagna chissà quanti lavaraggio di microfono. Attenzione, collega, che ascolti l'isola galleggiante della Sardegna che chiama, campi. Ti ho salutato, tu con la come mai? Ho una voce altissima io. Evidentemente non dipende dalla tua voce, ma dipende dal baracchino. Ci sto. E l'antenna bassa, ciao Marina. Se no magari avresti sentito meglio la situazione, va. Ok, riprendi tu. Attenzione, l'amico della Calabria, se mi ascolta. Un attimino che sto prendendo le connessioni di questo microfono, che ho trovato il microfono, dai. Faccio le connessioni e arrivo, eh. Aspetta un attimo, Mario, non te ne andare. Aspetta, che stiamo parlando della Calabria. Avanti, collega che chiama Sassari, avanti. Attenzione, lupo della notte, ti ascolto forte e chiaro, dai. Segnale per te Santiago 7, da 7 a 9, con quei servizi, la radio è 5, dai, avanti di nuovo se mi stai ascoltando. È sparita? Ti ascolto abbastanza bene, ma a volte ti abbassi, c'è un po' poco il CD, non è una propagazione fissa, ma se ne vai e poi ritorna, insomma, sto facendo un po' di fatica a tirarti fuori a volte, però riesco sempre a tirarti fuori. Sono passato, abbasso un po'. Guarda, 1, 2, 3, pronto. Cavagava. Questo qui è il microfono normale del Galaxy. Ma il tema è stato là, quello da quattro, il Galaxy è l'altro. Dai, diciamo che l'ho messo a posto, l'ho messo tutto, fa, fa, fa. Ma non lo sai, cioè Natalino, più attivo. Natalino in cucina che sta facendo cose, non può rispondere. Buongiorno, buongiorno signorina, saluti, avanti già. Un attimo, Marino, sono come ne vado anche io, devo cucinare anche io. Cioè adesso c'è stato... Esatto, ho portato la luce, l'ho acceso, tanto per scaldare qualcosa. E mi ho sentito, tutto qua. Ok, c'è Luca che sta aspettando qualcosa, c'è la signorina anche. Luca, ci sei? Non c'è ancora, lui sta aspettando qualche cosa al microfono. Sono tornato a terra tutto un deserto, cazzo, è molto polizia, molti controlli, non lo vedi. Avanti già. Ma tu dove sei? Nelle piazze? Parcurcare già, parcurcare. Io c'ho parcurcare tutto l'interno, quasi, diciamo, la parte, metti nel solito, la parte destra, la metà, vai. La metà. Non è stato l'ha portato, lascio capire tutto. Ma non sono arrivato, avanti che non va, sto facendo per attivare Gianni. Cavagava, vicino a far passare, sì, sì. E già è piccola la piazza di là. Io non sono la piazza, non già. Non sono la piazza, io, diciamo, cerco di attivare così via, sì, sì, sì. Dove dovrei rimanere, quasi, se io anche se tengo, dove rimanere, quasi vicino a far attivare, perché mi possono chiamare sia Vigi, sia alcuni. Io parto dal corso, la parte destra salendo da dove c'è Capizza, tutta la salita, tutta sulla destra, la Capizza arriva a Piazza Zuri, Piazza Zuri, vado via Luzzatti, arrivo al Rosario, la chiudo e poi c'è tutto l'interno, intorno intendo, via Trattonda, Piazza Università e corso. Gianni, guarda che ho piazzato il microfono, va bene? Questo è un altro, rap. Troppo forte, sì. Gianni. Prova, attaccato dalla bocca. Attenzione, Gianni, non più rum, cambio. Mi sembra che vada meglio questo. Famiglia, dai, aspetta che lo chiudo proprio bene, aspetta. Ciao Marino, scusa un attimo, aspetta. Più chiara la voce. Esatto, più chiara sì, Luca, più stabile questa. Ho capito già, non è piccola, ma io non ero mai, dove sono già più 10 anni nella gioco, là. Lasciamo stare questi giorni non c'è nessuno, adesso è un quasi tutto terminato, più o meno, là. Già va bene. Questi giorni c'è un casino, proprio oggi è un casino di controlli, macchine borghese a nastro, ma non uno, un bel. Lo so, stanno fermando, per dire che stanno controllando anche gli scontrini della spesa, tutto qua. Purtroppo se c'è l'ordinanza non riuscire, non c'è nulla da fare, lo so, c'è gente in difficoltà, c'è gente malata, un po' uscire, ma so, mangio qualcuno, lo so, è un casotto. Ma non è, non c'è nessuno, c'è la taglia, la taglia forse sta cucinando in cucina. Avanti, già. Sì, allora, la taglia non cucina lui, che mi occupo qua. E adesso entro a poco anch'io qua a fare qualcosa. Ma guarda, a me già stanno cucinando, io vi aspetto il messaggio e salgo su, adesso sono giù, quando salgo tutto qua. Claudio non è entrato, giù. Cosa? Claudio, non c'è entrato? Allora, oh Gianni. Va. Allora, questo qua è quello che ho appena piazzato, dai. L'ho appena piazzato, questo qua. Adesso riprovo l'altro. Mi deve dire che è meglio. Se è meglio questo, cambio. Aspetta. Io l'ho già detto. Oppure questo, cambio. No, quell'altro. È meglio l'altro. Questo qua è più squillante, però. Boh. Il cuffio mi sembra più squillante. Il primo meglio, Luca. Come? Il primo, quello che ho già, il migliore. Più chiaro, più bella. Ok, dai, allora metto l'altro, aspetta. Più acqua, dai. Ok, Maria, ci sei? Sono qua. Ah, dai, QSS, aspetta un attimo, Maria, allora, secondo le tue orecchie, che sei inesperta, che è meglio, questo microfono, 1, 2, 3, prova. Aspetta, come ho detto, sono qua, occhio è. Ma il secondo sembra più, molto più pulita la voce. Fossia, guarda questo qua è il secondo, 1, 2, 3, prova. Ciao Tino. Ciao Lu. Ciao Mari, ti sei confuso, dai. Niente, il secondo è quello che sta facendo adesso il passaggio lui. Sì, questo qua è il secondo microfono, dai, voglio un parere da tutti, non solo da Gianni o da Marino. Secondo te Tino è meglio questo, 1, 2, 3, prova. Cambia, cambia, poi te lo dico. Ciao Marino, ciao Gianni. O è meglio questo, 1, 2, 3, prova. Questo è appena più amplificato. Visto. L'altro com'è? Va bene, non so, dimmi tu. A me piacciono entrambi. Il primo è più chiaro, questo ha più amplificazione. Sì, ma è più forza la radio. Infatti, ha più amplificazione. Ciò sta a significare che te la fa più prepotente, più tutta, l'altra è più chiara la radio. Te l'ho appena detto. Scusa, secondo va bene sul 45, dai. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, voi mi state alzando, io ho appena finito di lavorare. No, non ci stiamo alzando, qui ne ho fatto quelle cose. Poi, tra cui me lo ci siamo alzati alla stazione, pulito per gli impianti. Ci stiamo alzando, ma guarda bene l'attivo. Alle 3 di mattina, capo da domenica che non lavoro, alle 3 sta in piedi con un grillo. Lo so, a parte te, ma cosa dire? Io sto facendo la campagna, quindi mi sono messo a fare qualcosa, ma c'è troppo freddo. E addirittura sta anche piovendo. Ma non c'è stato, sono uscito dal camion, mio collega, soltanto stava gocciolando, aveva un fuoco a Monassi. Qua di luce, mio collega ha detto, ma forse è niente, ma speriamo più che dubita. A Marta Bonito, che gli è stato lì, davanti i gambi. Come sto scendo io di radio, dai, che sto usando il microfono, non lo fa. Ma va bene. Per te, Tino, com'è questa radio? È normale. Con l'eco, Gianni, va bene. Questa qui è il microfono originale del garage. Sto troppo attento che ce lo faranno. Bene, bene. Luca. Luca, Luca, ti ho perso. Luca. Marina. Ditemi. Ciao. Allora, ma tu stai parlando da Tocutiaca, sì? Sì, sì, sono a casa. Infatti, il segnale era quello, quello che conoscevo io, dai, quello di Luca, quando era da queste parti. Adesso coronavirus è la divisi. Però hai visto, c'è un mezzo di comunicazione, e non è poco indifferente la cosa, Sì, no, ti mando un articolo. Mi alzo, prendo il telefono, aspetta. A me mi stava chiamando, ciao Gianni, ciao Tino, ciao. Ciao Luca, se mi stai ascoltando, io anch'io faccio quelli che ti mi stavo chiamando, ciao. Ciao, ci sentiamo, Marino, ciao, aspettando, ciao. Ciao Marino. Ciao, ciao, scusa, mi sono dovuto alzare a prendere il telefono. Arrivato. No, sono un attimino su WhatsApp e sto rispondendo all'amico. Ah, vabbè, non mi stai cagando. Allora, riepiloghiamo, questo qua lo dicevo prima, precedente. No, no, lui, te l'ho detto, fra quei due era più chiaro quello che ho detto io. Che era flippi dalla radio, meno graffiante, e niente, l'altro è più da combattimento, e diciamo per fare gli X-45, là. Questa qua è quella, l'altra, dai. Va bene, questa qua. No, questa qua è granchia. No, questo qua è l'altro microfono già, ma allora, questo qua è quello che ho fatto nuovo. Ma dipende da come te lo avvicini allora, Luca. Lo devi mettere di lato il microfono. Te lo vedo, non davanti, di lato. Allora, questo qua è quello che usavo spesso, ok? Messo di lato, capo. E questo è l'altro, messo di lato, capo. E beh già. Luca, ripeti, dai, riprova. E questo qua è l'altro, messo di fianco, capo. E questo è più chiaro, basta. Per me è così, poi, gli altri non lo so, per me è più chiaro questo qua. Più chiara la modulazione, c'ha più a tutti, va meglio questo. rimesso, la capsula aperta. No, ho altro microfono uguale, nero, già, no, no. Aspetta un attimo. Già, è vero, hai visto. Se ne sono accorti anche loro, il coronavirus hanno messo in atto un componente da 27 MHz, ma non solo, ti dirò, ti ripeto io, come tu sai, anche tu conosci delle persone che sono in altre bande e stanno scoprendo altre attività, anche satellitari, quindi stanno combattendo, sono una macchina di guerra, facendo queste chiamate, queste cose anche via satellite. Si stanno muovendo così perché il tempo è più a disposizione, quindi c'è più tempo, c'è più rilassamento, uno si mette, si gestisce la sua fazione e così via. Vabbè, è vero comunque. Cavallo. Sì, certamente che sì. Adesso vedrai che succederà come negli anni 90, 91, 95, credo, se non mi ricordo, che cresceranno le antenne nuovamente, quindi nuove concessioni e quant'altro. Speriamo che si ripopoli, ma già siamo bene anche così, ci abbiamo il nostro salutino, ci troviamo qua su 10, siamo bene anche così, non ce ne frega nulla. Poi intanto qualche uno da fuori tira gamba, tanto quello che ci interessa a me è passare un po' di tempo con gli amici e basta. Sì, vabbè, io parlo gli anni passati, c'era molto bailare, nel senso che c'erano anche gente che voleva fare solo casino, la radio magari non ti faceva modulare, quindi dovevi cercare di essere. Prima la legge era del più forte, se tu non avevi il basso sotto, passava, ti mettevano portante, sopra modulavano. Già lo sai com'era, no? Io facciamo incantare a questa, io facciamo incantare sopra modulazione. È vero, aspetta un attimino. Ci sono, sì? Ma come mai non lo dismettere questo? Io ogni tanto lo accendo perché... Aspetta, cambio faccio. No, vedi, vabbè, che mi si è bloccato. Che cara, è questo il fratello? No, uso questo per comunità. No, l'altro ogni tanto mi fa delle mancanze, non riesco a capire il perché. No. Questa rimane più grosso, più fumato. Non ti piace? La posso cambiare, guarda un po'. No, prova a mettere un po' di agguni perché è troppo. Vedi un po' così, guarda, 1, 2, 3, ho cambiato. Dal giorno alla notte, sì. Migliore? Lasciamo così? Lasciala così, bambino, là. Prima era c'era troppo cupa, troppi bassi e pochi altri. Avanti, Luca, ti sei deciso? Vabbè, Luca non c'è. No, sì, cos'è, dipende anche dalla radio che... dalla stazione che mi sta ascoltando, perché alcuni mi danno di alzare e alcuni di abbassare, quindi io solitamente lo tengo non quasi come un letto tu, però un pochino di più, però magari tende a sporcarsi, guarda, aspetta, faccio così, eccolo qua, solitamente la tengo all'incirca così, ecco. Ti devo lasciare che qua devo preparare, se no non mangio nulla. Io non ne ho di fuoco, quindi devo andare in aiuto. Ehi, aspetta, dammi l'ultimo controllo, lo rimetto come la prima, così va bene. Prova. Guarda un po', insomma, ricordo se era così, guarda, 1, 2, 3, ti faccio due passaggi, questo è il primo e questo è il secondo, Gianni, 1, 2, 3. Adesso non ha cambiato nulla. Non ha cambiato nulla, non lo so. Lasciamo così allora. Va bene, grazie. Ciao Gianni, buona preparazione, buon tutto. Sì, ciao Tito, ci sentiamo stasera, dai. Buona carica quando la fai. Ciao Luca, ciao anche gli amici che sono all'ascolto, così ti permette. Ehi, ciao. Ciao, stasera. Sono qua quello di prima, ci sei Marina? Oh, Luca, questo è troppo amplificato, guarda, io ti sto ascoltando, come vai a radio? Con questa radio per dire, poi lancio il mic a Marina, con questa radio per dire è molto amplificata, con l'altra invece che stavo usando poco anche andare bene. Dico, abbassa perché non sei un bel forte, abbassa. Sì, a te va bene, a te va male, a Gianni va bene. Guarda un pochino, ho abbassato, 1, 2, 3, ha migliorato. No, sei un bel alto, ti abbassa. Allora, guarda così, 1, 2, 3, prova di modulazione. Adesso va bene, adesso mi faccio due lecce. Cosa vuoi dire? La cosa, io ti sto ascoltando con questa radio qua, nell'altra andavi bene, con questa invece tendi a essere molto amplificato tutto. Allora, adesso sto qua all'altro microfono, ora un po' capo. Questo è forte, Luca, forte e amplificata anche, però ti sto ascoltando con il Seat 23 canali. Allora, questo qua è un altro microfono che praticamente ho autocostruito, cioè avevo messo lo spinotto perché non c'era, ho fatto le connessioni. Allora, questo qua è quello che ho rifatto adesso, ok? Questo qua, fai memorizza, fai questo qua che è quello di nuovo, aspetta. E questo qua è quello che ce l'usavo prima, rap. Ho passato un po' le macchine anche, Allora, con questo microfono all'inizio pareva che non aveva cambiato quasi niente, però la radio è più chiara. Se abbassi appena, ma io parlo ascoltandoti con questa radio, magari con l'altra radio ti avrei detto di alzare, dipende dalla stazione che ti ascolta. Ma senta che mi imbosso, qui faccio un male di schiena, sono piegato, aspetta, conservo tutto e ti richiamo, aspetta. Sì, io sono qua, dai. Ecco, dovrei esserci, dovrebbe andare bene ora. Mannaia. Sì, un camionista. Luca. Io non posso giocare, È andato in tilt il tutto. Altre prove?